Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua in diretta nella domenica pomeriggio, sera, aperitivo. Che domenica è? La domenica 7 luglio 2019 e l'estate è in calza. In calza, anche senza calza si può venire però. Si può anche venire senza calza, anche meglio. Così respira un pochettino il piedino e sei un po' più sciallo. Esatto, ed è severamente vietato nella nostra domenica il sandalo col calzino bianco alla tedesca. Mamma mia, grande, grande pellegrino, dai. Che poi magari quando togli sul piedino dal sandalo ti rimangono anche... tatuati le fibbie del sandalo, no? Esatto. Fantastico, dello sporco e del pulito. Ma Alex, ti sei mai chiesto perché il tedesco porta il calzino bianco col sandalo? Cioè... Devo essere sincero, è l'ultima delle mie aspettative, delle mie risposte, della mia vita. Sinceramente, facciano quello che vogliono i tedeschi, però secondo me la moda è, insomma, è un po'... Allora, ricordiamo che Alex Angioletti si è chiesto tutto della vita: perché nasciamo, perché viviamo, perché esistiamo. Tutte le domande più profonde di questa terra lui se le poste, sì. Tranne perché i tedeschi portano il sandalo col calzino bianco. Sicuramente per non far sudare il piede, magari per non far attaccare la pelle sulla fibbia del sandalo. Così è più ergonomico. Ergonomico, e quello dici... Sì, secondo me penso che possa essere questa una delle tante motivazioni che li spingono a fare questa scelta. No. Signore e signori, quando qualcuno... per forza si sforza a dare una risposta a questi interrogativi emblematici della vita, ecco, devo ancora rispondere al mio commercialista, ancora non ho avuto neanche tempo, però sulla cacata del sandalo mi sono un attimo applicato. Ti sei impegnato di più sul sandalo che sulla dichiarazione dei redditi. Sì, proprio così. Allora, 7 luglio, sono le ore, vedo un attimo, che sono? Le 20:13. Le 20:13. Ore 13 siamo minuti, in diretta, Siamo in diretta, pochissimo inizierà questa altra domenica alla pericena del convento, siglata appunto divertentismo. C'è Sandrino qui alla regia di Risto Radio, impostazione in piazzetta, c'è anche il nostro DJ Gallone che sta animando un pochettino il sound. Sta salutando le sue fan, ecco. Sì, come se fosse in versione papale. Sì. Tutto vestito di bianco d'altronde, anche, quindi non è che va tanto lontano dalla... Tra l'altro è la prima volta che nella storia che abbiamo un papa nero. Sì, perché per gli amici che non conoscono DJ Gallone dovete sapere che appunto è leggermente scuro, infatti finalmente qui al convento di Nonato fumata bianca abbiamo accettato il primo papa nero della storia, convento, ce l'abbiamo al qui convento. Al convento. Ratzinger si è ritirato in un convento, no? Quindi esatto. Si potrebbe ritirare anche DJ Gallone al convento. No, l'abbiamo appena nominato, adesso dovrà fare grandi cose per la... Ascolta, ma se Papa Francesco va in giro con la Ford Focus senza scorta, senza blindo, senza niente, ma Carlone come andrà in giro? Con monopattino? Dice Carlone con una 126 scassata degli anni 80, lui con l'asso di mazze, quell'adesivo e il pellegrino con la chitarra alle spalle. Esatto, tra l'altro presa a Bari, perché ricordiamo che lui è di origine barese, piccola Parigi, vista Bari, vista tutto. esatto. Poi abbiamo in un'altra sala un DJ famosissimo che si chiama Alex Angioletti, lo conosci? Grazie per il famosissimo, non so per quale, però vabbè, comunque sì, ci sarò anch'io, però questa sera per questioni di meteo, che c'è quella nuvola pazza nera che gira per la provincia di Brescia-Mantova, noi saremo all'interno del locale, per fortuna il convento ha sempre il piano B, quindi siamo tutti bel che comodi al ristorante. Il piano B in generale e il lato B è sempre è sempre gradito, diciamo, quindi c'è sempre... A proposito del piano B e lato B, sì. Ti faccio una domanda, visto che tu prima me ne posta una a me. Ok, vai. Te la faccio un po' più significativa, no? Altro che il sandalo. Ma te, quando vedi una ragazza, che cosa guardi per prima cosa? Gli occhi. Dai, non fare come le miss che augurano la pace del mondo e poi alla fine si scannano perché vogliono arrivare prima ad indossare la fascia della Miss Italia. Guardo gli occhi, poi penso alla pace del mondo. Ma io dovrei dire la verità, è il culo. Ah, davvero? È la topia, allora. È il culo e le caviglie. Ah, anche le caviglie. La caviglia è più da intenditore, comunque. E caviglia stuzzica. Poi dopo ci sta anche il polpaccio. Il polpaccio, stacco il polpaccio. Ricordi Stefanuccio quando va in giro a cercare il polpaccio attivo? Ah sì, lui polpaccia? Polpaccia, sai. Ah, polpaccia. Sì. Ok. Ma non parliamo di Stefanuccio, che ricordiamo... No, dammi una risposta sincera, ipocrita di merda. Ah, okay. No, scherzo. No, come fai? Siamo in diretta? No, nel senso che comunque l'ho pensata e l'ho detta. Dai, dimmi, fai cretino. Dai, dimmi la verità. Cosa guardi di una ragazza? Va bene, dai, lo ammetto. Il lato B, lo ammetto. Scusate, cari amici ascoltatori, sono stato un po' diretto, però d'altronde a me piace essere sincero. Mentre lui no. Esatto, tra l'altro mi stava dando un diretto proprio, pur di rispondere. Allora, Sandrino. Sì. Sandrino, siamo in diretta. Sì, ma non mi hai più detto... Sì, dimmi. Cosa fai? Ah, cosa faccio? Nella saletta. Nella sala ristorante padronale. Ah, nella padronale. Nella padronale faccio quel che posso. Come fa Valentino Rossi? Cioè, d'altronde, se la moto non mi performa, io faccio quel che posso. No, allora, mi troverete appunto in saletta, in saletta ristorante, troverete appunto la musica reggaeton e l'ultimissimissimissimo articchio con il tormentone del 2019, l'estate che incalza, e niente, ci sarà musica reggaeton, Italia Style, Afro. Quindi Angioletti la domenica fa la musica reggaeton. Eh sì, perché bisogna veramente sottolineare questa cosa, perché proprio ieri sera una carissima amica frequentatrice, appunto, no, insomma, la nostra fan del convento, sì, ieri non ha tardato neanche a dire la propria, dicendo scusa, ma come mai la domenica fa una bellissima musica e sabato no? Cioè, oddio, non è che sabato sei specializzato, cioè, sì, la domenica a seconda delle serate tu fai la musica. Assolutissimamente, che... quindi io gli ho spiegato appunto, perché era oneroso spiegare anche il palinsesto del convento. Il DJ rimane sempre lo stesso, ma si cambia appunto il genere musicale, si abbraccia un attimo il... Esatto, e ricordiamo che non fai brutta musica, fai una musica che a lei non piace perché è amante del reggaeton. Sì, però dai, io l'ho sempre in modo sincero, l'ho detta così come mi è arrivata, e appunto alla fine bisogna accettare anche apparentemente delle critiche, oppure magari limare un attimo le critiche e farle diventare informazioni proprio strutturali, in modo che così capiscono o ti spieghi definitivamente e basta. E basta. Chiudi lì. Infatti adesso stiamo spiegando definitivamente che la tua musica della domenica è il reggaeton, quindi c'è la sala reggaeton al convento. Sì, è la sala reggaeton, la musica, poi abbiamo anche Santana stasera, E dov'è che la fa? Al primo piano. Ah, al primo piano. Primo piano Santana, farà baciata, salsa con i ballerini. Ci sono due ballerini, Alessandro e Michael. Ah, perfetto. E poi sono pronti allora, a partire. Sono già pronti a partire, quindi siamo già pronti anche con il latinoamericano, perché a 8:30 partono le danze, sì, giusto? Sì, ore 20:30, tutti attivi nelle sale, anche perché in piazzetta, già in effetti da questo studio si sta già vedendo una danza che impazza. Ah, sono già partite queste. Sì, sì. No, vuoi descriverle tu? Allora, quella ragazza che ha le convulsioni, No, le convulsioni hanno un ritmo in effetti un po' diverso, secondo me. Ricordiamo che la musica è la stessa, no, perché cioè, se... Ah, noi stiamo ascoltando la musica di DJ Callone in questo momento. Attualmente no. Abbiamo la musica di sottofondo che ci fa parlare. Però per chi vedesse adesso le persone che stanno ballando, sembra che sono in tre sale diverse, con dei ritmi diversi. Sì, sì, sì. E non è certo il silent party con le tre cuffie, insomma, con i colori delle cuffie diverse, che quindi stanno ascoltando tre DJ contemporaneamente nella stessa sala. No, ragazzi, qua c'è un problema di ritmica, c'è un problema di coreografia, c'è un problema di metrica anche. Secondo me ci sono tre mondi paralleli nella stessa pista. Sembra tipo le corsie dell'autostrada, una in prima corsia, l'altra in mezzo e l'altra nella corsia quella di sorpasso. Incredibile. Attenzione però, si aggiunge il direttore scenico, il direttore... Ecco, stasera ha le scarpe di Mocassino Bordeaux. Che di solito fa odore in Mocassino, diciamolo. Beh, ecco, vabbè, non parliamo di queste cose, ma torniamo a noi. Quindi abbiamo parlato della tua sala, la sala di Sant'Anna e la sala principale, quella di Carlone. Sì, che, sì, sì, sì, che genere fa Carlone? Carlone, dai, va a fasci orari. Devo mettere che, perché dopo farà anche un riassunto dalle 23 in poi. Però all'inizio farà un 70-80, un 90, una musica attualissima di house o anche qualche pop rivisto, sì, con il ritmo appunto un po' dance. Quindi dopo, invece, chiudendo le due sale, okay, delle Santana e di Angioletti, sì, raggruppa la musica tutto in un'unica sala intorno alle 11, e fa un riassuntone della... e stiamo tutti qua assieme a ballare fino alla mezzanotte. Adesso quindi, le persone stanno mangiando, si mangia tantissimo, sì, vedo. Quello, guarda, secondo me, anche dal punto di forza del convento, perché è un buffet in più sale fortissimo. Lunghissimo, tra l'altro. Lunghissimo, da terramare al dolce, addirittura delle torte, finché biscotti secchi. E la cosa speciale è che c'è anche il buffet di dolci. Guarda che posti dove fanno l'aperitivo e c'è il dolce e il salato, sono introvabili praticamente. Devo dire sì, perché comunque qui i pasticceri, insomma, ne combino di tutti. Ricordiamo che abbiamo la pasticceria interna, quindi pasticceria i dolci interna, sono fatti dai nostri pasticceri. Quindi... Sì, proprio sì. Ogni tanto sulle storie di Instagram, appunto, chiocciola convento Donato, vedete appunto qualche storia che spiega appunto magari un arrivo di un dolcetto particolare in ufficio, che allieta un attimo i turni e i lavori pomeridiani delle nostre intanto stiamo, oddio, Che delicatezza. Sono bei momenti, eh. Ecco, salutiamo Valerio, nostro cliente fisso. Ma in che senso fisso? Che è rimasto, rimane fermo? Ah, ok, frizzato. Valerio rimane frizzato. Ma voi dovete sapere, cari amici a casa, che insomma ogni tanto noi veniamo interrotti perché essendo all'interno di uno studio con appunto le classiche vetrate. Che io dico sempre, sembra di essere dentro un acquario. Un acquario, ecco. Così noi ce la cantiamo, ce la suoniamo. Morale della favola, qualche volta veniamo distratti perché vengono qui i clienti a pigliare pugni. Sì, sì, le vetrate. A battere le vetrate. Nei casi peggiori si attaccano con le labbra, fanno. Fanno come fanno pulitori. Invece pulitore, sì. Pulitore, ecco. Sì, fantastico. Ci sono anche queste situazioni fantastiche. Cioè, vogliamo intervistare, vediamo un attimo se ci danno giusta attenzione. Ma che pupaccio che c'ha la nostra collega? Stanno passando. Ma lei è ginnasta artista? Ma anche c'è addominali pazzesche, c'è anche grattugia. Sì, ha fatto anche il saggio, è andato benissimo, ha detto. Ah, veramente? Sai tutto di tutti? So tutto di tutti, hai visto? Parliamo? Sta passando il lupo. A proposito di quanto parliamo, di solito sono 5 minuti per raccontare e raccontarsi, noi abbiamo raddoppiato perché... Sì, perché tanto noi facciamo una flashata di tipo autovelox e poi dopo alla fine andiamo a lavorare. Esatto, sì, tra poco devi iniziare, tra l'altro, si stanno avvicinando le 8:30. Devo timbrare il cartellino in console. Sì, ti cercano, ti aspettano le tue fan. Allora, diamo qualche appuntamento della settimana, giusto per qualche amico affezionato, oppure magari chi ci vuole affezionare. Allora, il mercoledì 17 ci sarà la cena social. Ok. Perché l'abbiamo fissata il 17. Sì. Okay, quindi questo mercoledì no, l'altro. Il prossimo, cosa consiste? La cena social, per riassumere brevemente, è una cena tra sconosciuti dove il convento ha intenzione di creare un luogo di incontro reale, sì, non virtuale. Un momento di incontro, sì, oltre che il luogo. Dove le persone ormai si conoscono, sai, tutte online, sui computer, eccetera, ma realmente non si conosce più nessuno. Vogliamo... Guarda, un esempio velocissimo, ti posso dire, ero venerdì in una sagra di un paese qui in limitrofo, avevo a fianco una ragazza che mi segue su Instagram e neanche mi ha salutato. E sapeva chi ero. Ah, addirittura. Cioè, allucinante. Allora avrà altri motivi. Secondo me si vuole fare solo gli affari miei. Basta. È vero, ormai è così, è tutto un spiare l'uno con l'altro. Sì. Allora, 17 mercoledì, la notte social, con la cena la social, musica. Esatto. Si ci ritrova alle 8, tutti così, mezzanotte. Molto motivati. Esatto. Poi giovedì. Giovedì, niente, saltiamo. Giovedì tranquillo. Poi venerdì facciamo il doc. Venerdì doc, una serata, cena con musica, più, come dire, più attenti al particolare. Ok. Ecco. Mentre il sabato dinner dance. Sì, la nostra cena, quella storica, quella dove si fa casino. Si fa casino, ecco, sono molto motivati a fare casino, sinceramente dobbiamo dargli una frenata perché sono parecchio motivati, almeno alle prime ore della sera. Poi la domenica per cena, ma attenzione perché colgo anche l'occasione per ricordare un evento che ritornerà a settembre. Quella. Ma l'hai visto sui massi schermi del convento? Sto andando su in loop la slide, appunto, che è il video che a settembre ritornerà la cena col delitto. La cena col delitto, certo, l'abbiamo sospesa per il mese di luglio. Perché non c'erano più morti. Ecco, basta. Infatti, adesso andiamo. Diamo nuovi posti di lavoro. Ascolta una cosa, ma se la cena col delitto, insomma, fate su un romanzo in giallo, ma qualche volta morirà qualche cinese? Okay. Più che altro loro sai che non muoiono mai, nel senso. Perché non muoiono? Perché loro vivono. No, più che altro non si sente mai niente. Ah, ma sì, non ho mai visto un funerale cinese in Italia. Niente. Frizzato è anche quello. Niente. E qualche container. Niente, c'è una immortalità. Ma no, incredibile. Fantastico, sì. A proposito di immortalità, hai sentito l'ultima volta su Studio Aperto c'era una convention praticamente di un professore, non ricordo il nome perché dovrei andare su internet a ricordarmi, a cercare tutto punto, che promette stile di vita e metodi di alimentazione che possono garantire almeno 120 anni di vita. Fantastico. No, mi sono perso, non ho ascoltato. Hai visto la bionda alla mora? Sì, è passata una bionda e non ho capito più niente, quindi... Beh, niente, vabbè. Gli amici a casa l'hanno ascoltato, magari loro sapranno più di noi. Intanto passa Nadia, Intanto, dice Alex, arriva sempre di più il tuo momento per andare. Sì, dai, dobbiamo salutare gli amici della America che ci hanno ascoltato, giusto? Vuoi salutare anche qualcuno in particolare? Volevo salutare Antonio. Vota Antonio. Il piccolo Antonio, che è sempre più grande. Sì, è il piccolo grande Antonio, allora. Ma porca miseria, come cresce. Sì, si vede che mangia bene. Bene, il nostro momento è veramente giunto al termine. Questa domenica del 7 luglio 2026 ci salutiamo. Sandrino, grazie per l'ospitata. Ti è piaciuto? Sì, dai. È stato bello, no? A me è piaciuto. Sono durato più del previsto. Di solito queste performance non si verificano mai da parte di DJ Alex, ma va bene così. Ciao a tutti da Sandrino e Alex Angioletti. Ciao. State ascoltando Ristoradio Convento.